24 mattino. 17 minuti, anzi 18, e una piccola raffica di notizie per introdurre il nostro dibattito. Allora, assessore in Toscana, pensate, sulla verità, aveva dichiarato una sola casa e ne aveva 14. Beh, mica male, eh? La Boschi nei guai per questo servizio a Toronto, questa missione in cui spunta fuori, lo dice il Fatto, pagina 4, 1000 euro per un servizio fotografico, e ci sarebbero dei problemi, secondo il Cittadino Quotidiano canadese, per questa spesa. Gramellini sulla prima pagina del Corriere: pensate, aveva ucciso un'anziana buttandola da una scogliera, il fondo si chiama La Spinta, gli hanno dato solo 3 anni di servizi sociali, un ragazzo, però forse la pena è troppo leggera. Ricordate l'immagine simbolo Anna Maruni, io sono la catalana ferita? Ebbene, lei ha detto oggi, l'attrice che ha interpretato questo ruolo: non avevo niente a che vedere con quella causa, sono contro la secessione. E possiamo iniziare così e entrare nella pagina dei cani e dei gatti. C'è con noi il professor Pasquino, che fra poco ci introdurrà alla legge elettorale, ma voglio sentire subito Oscar Giannino, è lì davanti a me. Eccolo qua. Possente. Poi addirittura, no, perché? No. Eh beh, perché ti vedo carico, guarda, no. Visto a qua hai qualcosa di ascetico. Ma con gli occhiali, magari ricordi Gandhi. Dai, non mi accastare a un grandissimo il cui nome fa solo tremare le persone intelligenti. Beh, questo certo. Per esempio, Anna Maruni, che hai appena evocato, l'attrice 26enne dello spot. Eh? No, attenzione, però, diciamola tutta. Lei dice questo, ma leggendo si capisce perché lo dice. E perché è stata coperta di insulti. Perché è stata coperta di insulti, minacciata. La madre è costretta a sparire, cioè a non dire più dove sta, perché ovviamente l'ira degli unionisti spagnoli, eccetera, l'ha messa almeno fisicamente. Quindi, per difendersi, dice anche: mio Dio, viva la Spagna Unita! Però il problema, no, però, è la reazione. Oscar, se sei un indipendentista, non dici: no, no, ma lei l'ha, soldi, fatto d'attrice, eh? Lei l'ha fatto l'attrice. Ho capito, e allora tieni il punto. Cioè, se avesse avuto punto, veramente questa passione, non avrebbe detto che l'ha fatto dire per soldi. Tieni il punto quando la gente ti minaccia fisicamente. Non è questo così sicuramente facile. È vero, però è una ragazza fragile, ecco. Questo, ragazzi, questo sono d'accordo, però dà l'idea di come oramai tutto vada oltre, tutto vada oltre. Pensa a questa incredibile vicenda del calcio, come è andata oltre, come, cioè oggi io trovo che... Ma non è più calcio, è un racconto italiano, è un film. È un racconto di un paese incapace di avere misura, senza la misura, rispetto della storia e dello sport, di chi tifa e di chi invece dovrebbe avere misura perché la sua responsabilità è guidare una società di calcio. Trovo che la lettera articolo di Piperno, con questi 15 e grottesco che inquadri perfettamente la vicenda. Infatti siamo d'accordo. Allora, il professor Pasquino, lo conoscono tutti, è un politologo, uno studioso ed è uno dei critici della legge. Allora volevamo da lui un parere tecnico nel giorno in cui si arriva a questo verdetto sul perché secondo lui questa legge non va bene. Buongiorno. La legge non va bene perché dà il minimo di potere possibile agli elettori, cioè ogni elettore al massimo può tracciare una crocetta o su un candidato o su una lista, abbiamo appreso anche che saranno liste che comprendono più coalizioni. Tutto il resto però è nelle mani dei dirigenti di partito e, come spesso dico, anche dei dirigenti di corrente, cioè saranno loro a scegliere i candidati. Saranno loro a decidere dove collocare quei candidati, quindi in collegi uninominali che si sanno più o meno sicuri, spesso più sicuri, e in quale posizione nella lista, perché anche la lista proporzionale è bloccata, quindi essere il primo e non il numero 6 significa essere quasi sicuro del seggio in Parlamento. Quindi vorrei non più chiamarli nominati, ma diciamo così scelti e poi predestinati. Alcuni saranno predestinati a entrare in Parlamento. Pasquino, le faccio un esempio che divertirà e sicuramente ha divertito anche Oscar. Da 2 giorni circola una simulazione fatta dagli uffici del Partito Democratico secondo cui se Rosato si candidasse nel suo collegio nel Veneto, non nel Veneto, nel Friuli, non sarebbe eletto il papà della legge, e quindi qui gli serve in maniera, come dire, improcrastinabile il paracadute. Se non ha la multicandidatura, lui nel suo collegio non sarebbe eletto. Con la sua legge non è male. Infatti Travaglio oggi ironizza e lo prende un po' in giro, poverino. Oscar, che ne pensi di Rosato affondato da Rosatellum? Sarebbe divertente. Sai, penso che però forse io non lo so cosa avverrà davvero, perché poi PD smentisce ciò che era circolato dall'altro ieri sul numero praticamente quasi asintoticamente tendente a zero nel nord nei collegi nominali dei candidati del PD. Vedremo, ma certo è difficile contrastare ciò che il professor Pasquino ha detto. Almeno dal mio punto di vista questa è una legge figlia di un compromesso blindato tra due leader politici, a cui poi si è aggiunta anche la Lega, e il cui esito è quello di non far scegliere agli elettori né coalizione di governo, non impegnarsi a coalizione di governo prima, quindi ognuno è libero di, in campagna elettorale, di dire cose sapendo che poi non avranno alcun riscontro in quello che poi a mani libere i leader dei partiti decideranno di fare nella legislatura successiva. I listini sono bloccati e i collegi nominali sappiamo chi li sceglie. Quindi detto questo, somma, sia dal punto di vista della governabilità sia dal punto di vista, su cui era intervenuto più volte la Corte, di estendere la facoltà di il peso della scelta degli elettori, dei difetti che sono marchiani. Chi la difende dicendo che le obiezioni sono infondate, o che chi le avanza lo fa perché avverso a Renzi, confonde come sempre nella politica italiana il merito delle cose con la fazione. Nel merito delle cose a me sembra chiarissimo che queste obiezioni hanno purtroppo un grande fondamento. Allora, Pasquino, la domanda qui più tecnica: esistono, perché potrebbe essere una brutta legge ma essere perfettamente, secondo noi, e bella secondo altri, ma essere perfettamente costituzionale. Secondo lei esistono dei profili di incostituzionalità sul problema del no al voto disgiunto, del fatto che si vota sul proporzionale e il voto si rispecchia sul maggioritario e viceversa, oppure no? Probabilmente qualche vizio esiste per esempio nel fatto che alcuni candidati sono più uguali di altri, e quindi questo viola l'articolo 3 della Costituzione, dove si parla di eguaglianza sotto vari rispetti. Esiste secondo me anche perché alcuni elettori saranno più uguali di altri, ovvero avranno un po' più potere di altri e così via. Però il problema non deve essere, come dire, visto, risolto sul piano della costituzionalità. Il problema è che questi candidati verranno in qualche modo eletti, ma solo perché sono stati designati dai loro dirigenti di partito, e non avranno nessun interesse a rappresentare l'elettorato. Cioè, rappresenteranno i dirigenti di partito perché sono loro che li hanno candidati e sono loro che avranno la possibilità di ricandidarli. E cioè, a proposito di rappresentanza, la rappresentanza sarà ridotta ai minimi. Nel migliore dei casi sono i capi di partito o i capi di corrente che rappresenteranno quello che decidono di fare. Sentivo prima dello schieramento variegato che ha appoggiato la legge, sarà il caso di ricordare che anche i 14 senatori di Verdini hanno appoggiato la legge, che mi pare un aspetto importante. E qui c'è anche l'altro elemento abbastanza curioso: Verdini forse si candiderà all'estero in una circoscrizione. Non lo sappiamo ancora, è un'ipotesi. No, però lo dico perché la voce è circolata. Però la sostanza è che questa legge non risponde né al principio della rappresentanza né a quello della governabilità, perché avremo delle coalizioni confuse sul piano elettorale e poi probabilmente ancora più confuse sul piano parlamentare. Allora, grazie a Gianfranco Pasquino, lo riavremo presto volentieri perché è uomo arguto, non solo esperto di politologia. Oscar, che facciamo? Discutiamo amabilmente sulle pensioni? Beh, immaginavo di sì, perché sei tu avulso dai numeri, no, come sei perfetto in questo paese. Un'altra campana, no? Sì, no, è la campana minoritaria di chi invoca la realtà, ma in questo paese invocare la realtà significa condannarsi all'irrilevanza. Come no. La politica italiana è l'arte dell'artificio nel dire che la realtà non deve essere ciò che guardano gli elettori, così che si fotte meglio. Ma intanto pensi che la spiegazione sia quella che ha dato la stampa, cioè che è collegato alla bomba dello spread, ed è veramente una bomba dello spread che come dice Barbera sulla stampa? No, l'aspettativa di vita avanza, è un grande successo, solo la politica piagnona e chi vuole ignorare i numeri lo trasforma in una condanna, perché pensa che l'aspettativa di vita debba essere indipendente da quando andare. Però la sentenza della Corte non è sull'aspettativa di vita. Quello che vuoi, no, tu, però io intanto insisto sul punto fondamentale. È sulla perequazione. È sull'indicizzazione. Sull'indicizzazione. È la sentenza, e quindi della c'era Corte un meccanismo automatico che diceva che la pensione deve essere indicizzata, e questo meccanismo, secondo la Corte Costituzionale, aveva sottratto dei soldi alle pensioni in essere. E ora con una nuova sentenza dice sì, è vero, però non possono essere restituiti tutti perché non abbiamo abbastanza soldi. La sentenza della Corte, quindi... più volte, non è particolarmente innovativa la giurisprudenza della sentenza della Corte, che pazienza, e più volte ha spiegato che si può intervenire in materia previdenziale purché siano rispettati i principi di eguaglianza e proporzionatezza ed è legittimo tenere conto delle esigenze dell'equilibrio della finanza pubblica. Questi tre principi, secondo la Corte, che sono già nella giurisprudenza più volte, questi due punti di vista. Ma ti chiedo se secondo te, intanto do il numero 800240024 per intervenire sullo Tito, sulle pensioni, sulla Boschi, su quello che volete voi, se secondo te questo pezzo di Barbera da Francoforte, che è molto allarmistico, forse il più allarmistico. Ma perché allarmistico? No, dice, di cosa ti allarma? No, possiamo trovarci in un'emergenza da 25 miliardi fra pochi giorni, e questo voglio chiederti la tua opinione, se una veramente delle c'è... Due, come abbiamo ricordato anche ieri, nel documento, nella nota di aggiornamento del documento di economia e finanza del governo, cari ascoltatori, se volete approfondire andate sul sito del MEF, ve lo scaricate e leggete, c'è una simulazione di che cosa può avvenire se il cosiddetto tapering, cioè la marcia indietro del QE, degli acquisti della Banca Europea, grazie alla quale San Mario Draghi ci ha salvato, ci sono 300 miliardi di euro di titoli pubblici italiani nella pancia della BCE, se avviene in maniera troppo rapida o in presenza di instabilità internazionali, può portare di nuovo a una crisi del debito. Trovate la simulazione di quello che avviene nel note di aggiornamento del DEF e troverete che in particolari condizioni il debito pubblico può addirittura non solo salire ma restare per quasi 10 anni a 135% del PIL. Quindi non è allarmismo, ci sono già le simulazioni del ministero, anche se la politica e i giornali fanno finta di non vederle. È un citando però un giornale che ci apre, perché la stampa ma ci apre perché 3. Giustamente gli altri giornali se ne fregano, mentre invece è elementare ragionevolezza tenere conto di quello che può avvenire, visto che lo sappiamo che lo scudo si ritrae e che i governi in arrivo in Olanda lo hanno appena formato, in Germania quando si farà, in altre eccetera, non sono più dell'idea di farci troppi sconti. Pubblicità e ci sentiamo subito dopo. Chiamate, mandate messaggi, siamo qui. State ascoltando un programma offerto da Dottor J e Mister I. Trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. jgalileo.com. Mattino. Fioccano le vostre telefonate. Luca Terese, Oscar Giannino e Nicola da Monza che entra qui con noi e dice: buongiorno Luca, buongiorno Oscar, è un piacere ascoltarvi. Buongiorno, buongiorno. Dove sei? Guardo... Che fai di bello? Dove sfrecci in questa mattinata? Scusami? Dove sei? In che parte? Ah, adesso sono vicino Lodi. Ah, ecco, ma se stai lavorando, cosa stai facendo? Sì, sto lavorando, benissimo. Sul camion. Perfetto, vai. Volevo te lo dire riguardo la legge elettorale. Sì. Siccome è andata la fiducia all'Italicum, poi è passata all'esame la Corte Costituzionale che l'ha, diciamo, sistemata, come mai non hanno tenuto quella lì per andare al voto? Beh, ti può rispondere Oscar, però il Parlamento è sovrano. Non è stato, la sentenza della Corte diceva che l'elezione e la legge erano da stroncare, però il Parlamento rimane in attività per la continuità dello Stato, quindi questo Parlamento fino all'ultimo momento in cui è in carica tecnicamente può votare delle leggi. Oscar. Ma l'effetto delle due sentenze della Corte con cui saremmo andati a votare, quello sulla legge elettorale del Senato e della Camera, disegnava una legge elettorale praticamente puramente proporzionale, che però agli occhi dei segretari dei partiti aveva due essenziali difetti. Primo, le soglie minime di rappresentanza erano molto diverse tra Camera e Senato, e questo a quelli che hanno fatto questa legge elettorale dava molto fastidio, perché avevano bisogno di soglie molto più basse e uguali tra Camera e Senato, perché ne hanno bisogno per organizzare le liste a sostegno del proprio partito. Quindi questa intanto è un motivo forte per cui lo hanno cambiato. La seconda è che c'era anche un'incoerenza, sarebbe comunque stato necessario un decreto per andare a votare di aggiustamento tecnico, perché nel Senato si ammetteva comunque l'idea di coalizioni, alla Camera assolutamente no, e anche questo dava molto fastidio a PD, ai segretari, ai leader di PD e Forza Italia, perché o l'una o l'altra. Quindi il motivo vero per cui hanno disegnato questa cosa non maggioritaria e non solo proporzionale, ma fatta in modo tale che non ci sia una maggioranza coesa e che il voto dei cittadini pesi il meno possibile, deriva essenzialmente da quelle due ragioni che a loro davano molto fastidio nella risultante degli interventi della Corte. Stefano da Roma, noi uniamo l'Italia almeno con le onde radio, vai. Buongiorno, ma vorrei tornare un attimo sul tu dove sei, appunto. Che fai, come mai sei sveglio stamattina a quest'ora? Perché si lavora. Cosa fai di bello? Sono un dirigente pubblico. Bene, vai. Torno sul discorso delle pensioni, dove Giannino puntualmente dice che giustamente non abbiamo pagato le nostre pensioni, ma si pagano le pensioni di chi viene dopo. E questo può essere vero, però bisogna anche capire dove vengono fuori i buchi delle pensioni. Uno su tutti, lo Stato che non ha pagato i contributi. Oggi se un'azienda non è purché in ordine, non viene pagata, ma lo Stato ha potuto passare tutto l'impeto per Calderone INPS senza pagare i contributi. Corretto. Secondo elemento è che non si può dire addosso delle pensioni alle persone, guarda, te le togliamo, te le riduciamo. Perché se me lo dicevi prima, io mi potevo fare una previdenza alternativa. Bravo. Detto oggi mi vai ad intaccare il mio stile di vita, che attenzione, non è solo una cosa personale, ma va a deprimere il paese. Allora torna un ragionamento che forse Barca avrebbe voluto fare, ma per questo non è stato fatto, ministro. Due, anzi, uno, sicuramente la spesa pubblica non è stata toccata nonostante i proclami di qualcuno. Ma il secondo aspetto è facciamo una patrimoniale, ovvero andiamo a toccare i risparmi, perché i risparmi non mi danno l'ansia prestazione come se mi togli lo stipendio o la pensione. Peraltro, così voglio dire che voglio sapere quante sono le persone, secondo me l'uno per un milione, che si ricorda ancora oggi quanto ha toccato Amato con il prelievo sulle banche. È stata una cosa che alla fine è diventata indolore, ma ha risolto un problema del paese. Allora, ancora parlare delle pensioni, ancora vogliamo deprimere la quotidianità delle persone. Ecco, questo credo che sia il problema, a mio avviso. Tutto qua. Quindi... Oh, Oscar, scusa, rispondi te. Sì, no, rispondo io sul fatto che... guardi, comincio dal fondo, la patrimoniale. Andiamo a vedere che cosa è successo negli ultimi 15 anni negli stock patrimoniali, cioè di ricchezza, quelli che lei vorrebbe colpire in Italia. Ce lo dice l'indagine sulle famiglie della Banca d'Italia. E che cosa è avvenuto? Che fatta base 100, il patrimonio, la ricchezza delle famiglie con alla testa un over 65enne o un under 35enne, quello under 35enne è passato da 100 di 15 anni prima a 40. E quello invece, la famiglia media, naturalmente dati medi, però lo dice Banca d'Italia, base 100, l'over 65enne è andato da 100 a 140, perché non perché improvvisamente i pensionati italiani si siano arricchiti, siano a Las Vegas eccetera, perché il problema è che hanno difeso meglio grazie alla certezza del reddito previdenziale la loro ricchezza, mentre i giovani perdevano verticalmente reddito e non potevano quindi accumulare un patrimonio. Se facciamo la patrimoniale sui risparmi, chi colpiamo? Gli stessi che lei vuole tutelare con la previdenza. Ci pensi, perché è così in Italia. Quindi la patrimoniale che viene invocata, lo capisco spesso, per ogni cosa, in realtà sappiamo chi colpisce, a parte che bisogna vedere come farla, come non farla. Io sono contrario a prelievi patrimoniali, cioè sono dell'idea che ne paghiamo già troppe di tasse, troppe. Ne paghiamo di occulte. Allora, però c'è un'altra polemica, Oscar, questa è interessante perché era una notizia che era sui giornali oggi e un nostro ascoltatore dice: ah, però 400 euro per i presidi si trovano, 80 euro più 80 euro per comprare il voto agli statali si trovano, ma adeguare all'1% le pensioni da 2000 80.000 euro, no, e mette a rischio i conti. Beh, non è detto che noi siamo favorevoli agli 80 più 80 euro, credo che direi sia di io no. Che Oscar abbiamo detto direi che la politica dei bonus, per esempio, dà idee diversissime. A me piacerebbe farti la cosa domanda. Cosa pensi dell'aumento per i presidi? Aspetta, però, fammi dire una cosa. Fammi, dimmi tu come la pensi su questo. Se nella legge di bilancio, come è in bozza, il governo decide di tutelare gli 80 euro per i soli dipendenti pubblici, cioè la questione è questa: con gli aumenti che dopo gli anni di stop ai contratti ci sono adesso, sono già saliti a 2 miliardi e 9, benissimo, gli stanziamenti per i nuovi contratti pubblici, per coloro che sono nella fascia dai 26 mila ai 28 mila euro lordi con l'aumento contrattuale perdono i requisiti per gli 80 euro, in legge di bilancio si dice i dipendenti pubblici non lo perdono. Io ti chiedo, Luca, siccome io la considero uno schiaffo in faccia a tutti i lavoratori privati, se hanno la stessa soglia di reddito e gli aumenta il reddito, i lavoratori privati lo perdono. Perché i lavoratori pubblici non lo devono perdere mentre i privati sì? Come sta in piedi questa roba? Più drastico, ma c'è di una te. Roba intollerabile. No, ma ci deve essere una moratoria nucleare, per cui non si possono dare bonus, prebende, aumenti, non si può fare nulla a sei mesi dal voto. Bravo, esiste il semestre bianco per il Presidente della Repubblica, sì. Voglio il semestre bianco dei conti, perché non accetto che si aprano i cordoni per questa o quella categoria e a questo diamo la mollichella, a questo diamo ricordati, il buffetto a ridosso del ricordati voto. Degli amici, questo è quindi il motto della campagna. Quindi io sono d'accordo con chi oggi dice non si dà l'aumento ai presidi perché siamo nel semestre bianco in cui ogni aumentino siamo. È una regalia. Non lo e no, manca perché meno di sei mesi al voto. Sì, sì, no, voglio dire, però non lo siamo per legge, figurati quando mai la no, legge, la politica legge. Voterà che per la legge telese, che sei mesi prima non si fa, non lo farebbero mai. A parte che lo farebbero sette mesi prima, ma qui la cosa che io spero che ci sia un attore politico che insorga e vada dritto alla Corte Costituzionale, ci faccia la campagna elettorale. Mi dispiace per i lavoratori pubblici, perché quello che dico io ai lavoratori pubblici non è non lo si dà a voi, quello che dovreste capire è che non lo si può dare a voi come privilegio, diventa un privilegio se voi ce l'avete, i lavoratori privati no. Che colpa hanno i lavoratori privati se anche loro, come io me lo auguro, aumentano un pochino il loro reddito e stanno un po' meglio, loro lo perdono il bonus e voi no, e perché? Bah, robe da pazzi. Bello, lo rifai? Bah, robe da pazzi. È disneyano. Renato da Rimini, bah. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Fai anche tu un bah. Ma dai, si scopre che Telese in realtà vuole fare il regista. Il regista, no, ma è la fonetica gianniniana sarà studiata nelle università. Ricordatelo, ci darai una pellicola. Ciao, Renato, che stai facendo di bello? Buongiorno, salve. Sto andando a lavorare. Volevo fare un intervento. Complimenti per la trasmissione. Molto velocemente sul discorso che faceva il professore Pasquino, i problemi legati a questa legge. Abbassi poco qualcosa perché si stride un po', vai. Alla legge elettorale, che sicuramente è frutto di un compromesso a seguito di tutte quelle vicende che conosciamo, le decisioni che ci sono state, eccetera. La mia idea per ovviare all'inconveniente della scelta dei candidati da parte dei leader del partito è un'idea che ho da diversi anni, che ho provato anche a far conoscere a qualcuno, ma nessuno mi ascolta. Vale a dire istituire per ogni partito politico le cosiddette primarie di collegio. Vale a dire, ogni partito si organizza una domenica a un mese di distanza dalla scadenza del termine per la presentazione delle ma devono essere regolate per legge, per sai, legge, senza quello. Perché se no ognuno fa il pastrocchietto suo, però siamo al 100% d'accordo con te. E la patrimoniale esiste già, il bollo Salva Italia, sì, i soldi no. risparmiati sono stati già tassati. Ce ne sono un mucchio di patrimoniali, ma anche nella legge di bilancio arriveranno le patrimonialine. Perché avete quali? Letto quali, Oscar? Perché quella sulle assicurazioni l'hanno tolta. Però, come hai visto, le ipotesi di aumentare il bollo persino per partecipare ai concorsi pubblici, anche quella è una patrimoniale regressiva. Perché sai, se ti chiedono 10 euro in più per l'imposta di bollo per qualunque domanda di concorso pubblico e così via. Però ce ne sono 3 o 4 che ballano gli schemi di legge Italia dei concorsi. A proposito, ho verificato perché alcuni mi dicevano ma Esselunga, ho chiamato, ho parlato all'ufficio stampa di Esselunga, mi hanno spiegato, ricordate la cosa del concorso, sono stati 200.000, ma gli assunti erano 2 per un evento di Milano, in tutta Italia sono stati un centinaio, poco più di 100. Allora però attenzione, 200.000 per 100 posti, è l'Italia del concorso, sempre pubblicità e torniamo fra poco. Quattro mattino. Rieccoci, Vittorio da Roma mi rimprovera perché dice: ma Oscar stava dicendo un'altra cosa al dirigente pubblico che ha lasciato in sospeso. Volevi dire un'altra cosa, Oscar? No, ma io sulla patrimoniale quello semplicemente volevo dire, quindi, anche perché se tocchiamo sempre tutti i punti poi leviamo tempo agli altri. Stanno arrivando messaggi apocalittici: le nuove generazioni, quando si accorgeranno di quello che accade, ci elimineranno. Beh, spero proprio di no. No, però le nuove generazioni piuttosto dovrebbero esercitare meglio la voice, perché nel frattempo la giustizia intergenerazionale è tutta a favore di chi partecipa di più al voto, cioè dei più anziani. I partiti questo fanno, i partiti sono macchine da guerra, sai. Ma non è che vogliono trovo... prepensionare per altre ragioni. E come i gruppi editoriali hanno lettori solo over cinquantenni e quindi bombardano tutti i giorni sul tema bisogna prepensionarvi, ma è uno sguardo di corta veduta, ecco. Qui stiamo parlando però anche delle pensioni future, quindi è un tema che riguarda tutti. Allora, Alessandro da Milano. Sì, buongiorno. Sì, prego, prego Alessandro. Niente, la mia è solamente una, chiamiamolo sfogo, ma non è uno sfogo in generale, una riflessione. Niente, volevo solo dire, ma mi sembra, ascoltando negli ultimi giorni queste cose contro la politica, contro il razzismo, queste, siamo distanti anni luce da quello che è il vero problema, secondo me, di noi lavoratori, dei cittadini. Cioè? Cioè intendo dire che perché continuiamo col passato, con la politica, con tutte queste cose, che i problemi sono altri, dovremmo un po' staccare, secondo me, queste reazioni che ci sono, sia nei ragazzini troppo giovani che inveiscono e non hanno la più pallida idea di quello che è una reazione al malessere. Certo, tutto è una reazione al malessere, ma non per questo è giustificato. Non siamo, è che pensiamo... siamo reduci da 30 anni in cui si diceva che era tutto colpa della società e del malessere. Ma non è che possiamo pensare che se parlavi dei tredicenni che l'adesivo di Anna Frank sia una risposta al malessere, sennò poi dopo ecco, lo giustifichi sono anche. Molto d'accordo. Secondo me zero legami e zero giustificazione, però è la d'accordo. Tua opinione e la registriamo. Claudio da Roma. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, volevo soltanto dire questo ai serial killer di pensionati e lavoratori. Cioè, loro hanno l'hai toccata piano, come si suol dire, ai serial killer. Cioè, io ho fatto un ragionamento. Allora c'è la garanzia, dice no, siccome si campa di più fino a 82 anni, si va in pensione più tardi. Bene, e a me chi me la dà la garanzia che campo fino a 82 anni? Allora chiedo questo. Perché non mettere una clausola in cui se il disgraziato invece di arrivare a 82 muore, mettiamo a 70, al vedovo, alla vedova non si dia la reversibilità, ma la pensione è piena? No. Già noi dobbiamo rivederli al ribasso i requisiti della reversibilità, che sono troppo generosi. Sono troppo generosi, paghiamo oltre 40 miliardi di euro. La reversibilità siamo oltre. No, perdonami, fammi dire come l'ho spiegato mille volte. Lo sai che la reversibilità è legata all'importo. E io penso invece che sia sbagliato, più che all'importo, dovrebbe essere legato all'occupabilità del percipiente. Cioè la vedova trentenne non si vede perché debba avere la piena. Ma c'è la vedova trentenne, dai, sarà una. Sarà ma stiamo una, scherzando. Però, quante sono le vedove trentenne? Fenomeno badanti, no. Oscar, il fenomeno. No, Oscar, su questo mi secca perché per esperienza personale. Quando ti secca vai sulla voce, non fai parlare. Però detto questo, con pazienza. No, ma non puoi dire le vedove trentenni. La reversibilità è un diritto di persone che hanno vissuto una vita e non hanno, a 70, 80 anni, non hanno altre fonti di reddito. Stiamo scherzando. Ti sto dicendo che il criterio deve essere quello di verificare le condizioni di occupabilità del percipiente, quindi l'ottantenne, come evidente che dici tu, è il classico paradosso. Mentre invece noi non abbiamo. Il paradosso? È il paradosso, perché ti sto dicendo che bisogna verificare le condizioni di occupabilità, è automatico che la tua è una non obiezione, perché l'ottantenne lo supera la verifica. Invece vanno introdotti dei criteri, come fanno gli altri paesi avanzati, come al solito. E in questo caso non mi si può dire: perché vuoi restringere un diritto? Perché quelle tipi di reversibilità sono stati decisi quando eravamo un paese a condizioni di reddito e di crescita completamente diverso. Peraltro, su questa storia dell'innalzamento automatico, se mi dovesse dire, come sempre, ma perché sei così rigoroso? Se fosse possibile fare un dibattito serio politico, i partiti facessero un dibattito serio politico invece che pensare sotto elezioni a dire prepensioniamo i 58enni così ci votano, perché questa è anche la scelta del PD di adesso. adesso che improvvisamente in Parlamento andrà contro il governo Gentiloni. Però detto questo, se mi chiedeste qual è la cosa ideale, vi direi guarda caso quella tedesca. Cosa capita a chi è in Germania? Oltre ad avere un primo pilastro obbligatorio pubblico, anch'esso collegato all'aspettativa di vita, c'è una seconda polizza obbligatoria anch'essa e sei libero di scegliere da un certo numero di anni diversamente di andare in pensione prima con una penalizzazione che è del 2% l'anno e ti arriva ogni anno l'informativa su in cui ci sono semplici tre numeri. Quanto ti resta da versare per il requisito? Da quando puoi chiedere di andare? Terzo, quanto prenderai se chiedi di andare prima, ogni anno prima? Ti dicono la cifra precisa. E quanto invece se continuerai a versare? Ecco, questa mi sembrerebbe una cosa ben fatta, perché se concilia una libertà di flessibilità di uscita con la penalizzazione, però, ma soprattutto ti consente nel tempo di sapere come vanno le cose. Pensate che il primo pilastro pubblico in Germania praticamente non lo cambiano da 38 anni. Noi continuiamo a ballare ogni 3 mesi dicendo che vogliamo cambiare di qua e di là, e la gente, in questo lo capisco, il nostro ascoltatore, l'orizzonte di vita come fa a costruirselo? Ecco, esempio concreto. Bene, no, il motivo per cui mi accaloravo, ma è il bello della passione, è che seguendo la pratica di reversibilità di mia madre, che è una relativa fortunata, riesce a portare 4 lire a casa, ho trovato al patronato molti casi di anziani, moltissimi, che con la reversibilità al 60% o meno sono costretti a cambiare la casa dove hanno vissuto tutta la vita, perché muore un coniuge, non hanno più, ma stiamo parlando di pensioni che uno prende 800 euro e l'altro prende 1.400 e quando muore uno dei due non hanno più i soldi per pagare. Ecco, io ti dico che sono per una verifica. Secondo me, no? È una cosa che in un paese civile, Oscar, e so che sei d'accordo, non può accadere. Cioè va anche per garantito il reddito di un nucleo familiare. Per quindi quello ci vuole al 60% una verifica invece che darla a tutti. Cioè la reversibilità sommata di vedove, di grandi professionisti. Non credere che contino, sono poche numericamente, ma contano molto sul totale dei 40 miliardi. Comunque vedi che è un tema ormai trasversale, perché i due quotidiani più duri su questo, sulle pensioni, sono Il Giornale e La Verità. Paolo d'Arezzo. Paolo. È caduto Paolo, ha resistito finora. Ma Arezzo, sai come Raffaele... Arezzo, Banca Etruria, no, non fare battute di cattivo gusto. No. Raffaele da Napoli. Arezzo. Dio salvi gli aretini. Raffaele, poi vediamo di recuperare. Sì, Raffaele, buongiorno. Senta, io contesto proprio con tutte le mie forze l'Istat che dice che è aumentata l'aspettativa della vita. E perché lo contesto? E perché? E allora facciamo un'analisi seria. Capite che c'è gente che muore sempre a 70 anni, 72, 68. Per tumori, per inquinamento. È mandato matematico. Cioè, lei è convinto che l'Istat, invece di essere un serio e rigoroso, che con criteri pubblici, dichiarati e asseverati scientificamente, tira fuori le cifre, lei dice è al servizio di una cospirazione politica? È questa la sua impressione? Mamma dov'è? Mia, mamma mia, che paese. L'abbiamo forse perso. Mamma Oscar, mia. Questo però è un messaggio interessante. Pago la gestione separata già il 28%. Ecco. Dovrei essere obbligato a pagare anche, e scrive maiuscolo, una pensione privata? No, perché per esempio i contributi obbligatori del primo pilastro in Germania sono pari al 18,9%, metà a carico del lavoratore, metà a carico dell'impresa. Noi paghiamo il 33%, pensate un po'. Alessandra da Roma, se lo dici in un secondo. Alessandra. Sì. Eccomi, mi sente? Vai, rapida. Sì, dunque, io volevo rettificare le indicazioni date da Oscar Giandino, che tra l'altro stimo molto, relativamente al bonus che va ai dipendenti pubblici. Io sono una dipendente pubblica in part time e prendo 1.000 euro al mese. Bene. Se mi venisse dato... Ti fermiamo qua perché era solo come una rettificare? Cosa di tempo, Oscar, legge di bilancio, quello c'è scritto. Come fa a rettificarmi? Vediamo se la votano o se non la votano. Quello ne vediamo. Riparliamo domani. Ciao cani e gatti, a domani. Dottor J e Mister I, trasforma la tua azienda con J Galileo e Power 8. JGalileo.com vi ha presentato 24 mattino.